E adesso giuro faccio le valigie, scappo via in un'altra dimensione. Sono stanco delle vostre facce grigie, voglio un mondo rosa pieno di colore. Voi comprate amore con le carte Visa, con le facce intrise cima di sudore. E adesso giuro faccio le valigie, scappo via dalla dolce Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a bailare. Amico mio, devi essere felice, perché il nuovo mondo sta per arrivare. E non c'è taglio, non c'è cicatrice che questa passione non possa curare. Dio, io dalla polvere come fenice sono risorto ed ho imparato anche a volare. Soltanto perché ho fatto le valigie ed ho baciato la dolce Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a bailare. Il ballo della vita. Il ballo della vita. Il ballo della vita. Il ballo della vita. Il ballo di Marlena. Marlena, sì, vienimi a parlare, ti prego Marlena. Marlena, io ti starò a ascoltare, ti prego Marlena. Marlena, insegnami a lottare, ti prego Marlena. Marlena, sì, portami a bailare. Il ballo della vita. Il ballo della vita.